You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti. Che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Nella vita e a tavola i gusti cambiano. Benvenuti da Valentina Furlanetto a questa nuova puntata di Indovina chi viene a cena. Invitiamo subito a sedersi con noi l'ospite di oggi, la scrittrice italo-somala Cristina Ali Farah. Buon pomeriggio. Buongiorno. Lei è nata a Verona, è così? Sì. Conosce il film da cui prendiamo l'ispirazione, Indovina chi viene a cena? È un film che mi era molto familiare, l'avevo visto da bambina. E un po' la storia dei miei genitori è simile, no? Nel senso che mia mamma è italiana, lei è di Verona e mio papà è somalo e quindi lui era a Verona come studente, aveva avuto una borsa di studio e si sono incontrati, entrambi erano molto giovani. E lei è una scrittrice, collabora anche con diversi giornali e riviste, tra cui Repubblica Internazionale, ha scritto anche questo romanzo, Madre Piccola, poi ci racconterà meglio di cosa si tratta, ha vinto anche dei premi, dei concorsi letterari, come quello Lingua Madre alla Fiera Internazionale del Libro di Torino nel 2006, e poi il premio Elio Vittorini, proprio per Madre Piccola. Poi andremo a parlare di scritture del suo lavoro, ma siccome appunto in questa nostra trasmissione mettiamo assieme un po' gli aspetti culturali con gli aspetti culinari, le ho chiesto di prepararci un piatto quest'oggi. Oggi pomeriggio raccontiamo quale ricetta. Sì, allora il primo piatto che mi è venuto in mente è stato gnocchi di banane verdi, perché appunto quando avevo 3 anni poi io con i miei genitori siamo andati a vivere in Somalia, vivevamo là. In Somalia, in particolare a Mogadiscio, che era una città cosmopolita, insomma, in cui vivevano persone che provenivano da varie parti del mondo, italiani, indiani. Insomma. Stiamo parlando degli anni 70, no? Sì, degli anni 70. C'era una cucina molto ibrida, no? In cui i piatti erano piatti spezie indiane, alcuni piatti, il riso basmati, i samosi, i sambus, sono proprio dei piatti tipici somali e anche la pasta, diciamo, gli spaghetti facevano parte della tradizione somala, sì. Perché c'è una forte influenza anche italiana. Esatto, quindi mangiare la pasta era una cosa normale, molti non lo sanno, no, neanche. Cioè, quindi gli gnocchi sono consuetudine a Mogadiscio oppure no. Li avete portati voi, sua mamma? No, gli gnocchi erano una cosa, diciamo, non era una cosa molto usuale e mi ricordo che c'era una signora, io abitavo in un quartiere a Mogadiscio che si chiamava Bondere ed era una sorta di compound, no? In cui c'erano delle varie case, poi c'era un cortile in comune e tra le varie persone che abitavano in queste case di fronte c'era una signora italiana, anziana, che era lì da moltissimi anni, forse da 30 o 40 anni che abitava a Mogadiscio e siccome le patate non si trovavano in Somalia perché vabbè, crescono nei climi freddi, lei si inventava dei piatti ogni tanto e poi li mandava su, veniva su e portava degli assaggi alla mamma, no? E quindi lei si era inventata questo modo per, al posto delle patate, siccome non c'erano, utilizzava le banane verdi per fare questi gnocchi. L'altro piatto invece erano i sambus che ho scelto. E i sambus sono degli involtini, spesso ripieni di carne macinata, peperoncino verde, diciamo cipolle, coriandolo. Ed è proprio un piatto somalo che si fa durante le feste. Ed è anche molto elaborato perché bisogna fare la pasta, stenderla, eccetera. E ho scelto i sambus perché io non li sapevo fare. Sono andata via da Mogadiscio quando avevo quasi 18 anni, 17 anni, nel 91, quando è scoppiata la guerra civile. E i sambus era una cosa che non avevo mai imparato a fare. Dopo molti anni, insomma, dopo che era scoppiata la guerra, sono andata in Olanda a trovare una cugina, insomma, che non vedevo da molto tempo, e anche mio padre, e soprattutto mio padre, che viveva lì come rifugiato. E quando ho visto mia cugina, lei mi ha detto, gli ho detto, prima di partire mi devi assolutamente insegnare a fare i sambus, perché ho una forte nostalgia, no, di questo piatto, così. E rimandavamo. E praticamente l'ultima notte, prima che partissi, proprio la sera, la notte, siccome non c'era più tempo che rimaneva, ci siamo messi a fare i sambus e così ho imparato. Adesso, proprio perché abbiamo parlato dei piatti somali, di queste influenze italiane e anche dell'India, delle spezie orientali, mandiamo una scheda che abbiamo preparato così da farle un po' risentire gli odori, i profumi della sua terra. La cucina somala è una delle più apprezzate del continente africano. Tre sono le influenze che hanno contribuito a creare l'identità culinaria della Somalia. La prima è quella indiana, riconoscibile nell'uso di spezie come il cumino e il cardamomo. La seconda è quella araba, attraverso un'altra spezia come lo zafferano. E la terza è quella italiana. La colonizzazione ha avuto i suoi effetti e i somali non rinunciano praticamente mai a un piatto di spaghetti o alla pasta in generale, a pranzo o a cena. La loro salsa di pomodoro è un po' più saporita della nostra, a causa del maggior uso di erbe aromatiche, ma le differenze non sono molte. Gli alimenti di base della cucina somala, spaghetti a parte, sono riso, latte, la carne di pecora o di capra, il pesce. Fra i piatti tipici c'è il kallun, piatto a base di tonno fresco e patate aromatizzati col cumino, il sambussi, piatto d'origine indiana, conosciuto lungo tutta la costa orientale dell'Africa, leggusi, un sugo fatto con verdure varie, pinoli, spinaci, olio di palma e peperoncino, il riso con carne tritata e soffritto di cipolla e peperoncino. I somali sono soliti fare colazione con fegato di capra, di pecora o di dromedario, fritto con cipolle e pane. Fra i secondi, oltre il capretto arrosto, sono diffuse le ricette di pesce e i crostacei. Fra la frutta tipica ricordiamo la banana, la papaya e il mango. Tra i dolci, il buca, di semola e mandorle al miele. Che ricordi ha di Mogadiscio? Mogadiscio è innanzitutto il mare, ma Mogadiscio poi in particolare era una città bianca, di muri bianchi, molto luminosa, con questi venti, questi monsoni che poi caratterizzavano anche le stagioni. E poi all'equatore, no? Quindi c'erano queste 12 ore di luce, 12 ore di buio. Si camminava molto, molto per strada, insomma, e soprattutto la Mogadiscio della mia infanzia era una città anche molto pacifica, molto anche in qualche modo mondana, in cui anche molto libera, no? Anche il fatto appunto del mare, il mare era così vicino che per un bambino è meraviglioso, no? Ci puoi andare tutti i giorni. E poi era l'Oceano Indiano, no? Quindi a seconda delle stagioni c'erano sempre qualcosa che il mare portava, no? Delle cose diverse, piccole pozze di pesci diversi, oppure conchiglie, oppure spugne di certi colori. E naturalmente poi negli ultimi anni la situazione politica è andata degenerando, quindi... Nel 91 poi se ne è dovuta andare per la guerra civile, no? Sì, io sono rimasta fino proprio alla fine, anche perché sono diventata madre, no? Quando avevo, nel dicembre del 90, proprio quando è scoppiata la guerra, e quindi ero un po' impossibilitata l'ultimo periodo a muovermi. E quando tu vivi e stai in un posto, credi sempre che, cioè non pensi mai che veramente le cose degenereranno, pensi sempre che rientreranno, quindi... quando si pensa alla guerra, uno dice sempre, pensa sempre no, Invece siete dovuti fuggire. Sì, con una nave da guerra che stava nel Golfo, perché c'era anche la guerra in Iraq nel frattempo, che è scesa una nave italiana, e quindi questa nave ci ha trasportato fino a Gibuti, dopodiché abbiamo preso un volo aereo in Francia, poi siamo venuti in Italia. I primi mesi siamo stati a Verona, ma pochissimo, forse 2 mesi, dopodiché mia mamma ha avuto un lavoro in Ungheria, e quindi io che insomma dovevo anche finire la scuola, sono andata con lei in Ungheria, a Pécs, in una città al confine con la Slovenia. Malaika, nakupenda malaika, malaika. Malaika, perché un po' perché in quegli anni, come si dice, c'era in molti paesi africani c'era questo spirito di panafricanismo. Anche la canzone è cantata in Swahili, Miriam Makeba l'ha cantata in Swahili, si immaginava appunto questa anche unione di tutti i paesi africani, c'erano incontri, loro si incontravano, anche mio padre era venuto a studiare in Europa, quindi spesso partivano, cioè, e incontravano commissioni di altri paesi africani, quindi era, credo, un momento molto bello, no? anche per loro che erano giovani, e in cui forse non presentivano quello che poi sarebbe successo. E poi un po' anche ho scelto la canzone perché quando sono venuta prima a vivere a Verona, poi a Roma, l'italiano è la mia lingua madre, quindi l'ho sempre parlata e non ho avuto la difficoltà. L'Italia un po' era un posto a cui pensavo di appartenere, appunto per la mamma, poi perché ogni tanto venivamo d'estate per trovare i nonni, i cugini, così. Pensavo che fosse un posto naturale dove sarei, e invece è stato molto difficile all'inizio, anche perché io ero mamma, una giovane mamma, e in un paese in cui non avevo, diciamo, dei legami anche forti, non avevo delle amicizie di lunga data, eccetera. E quindi un po' tutta la parte, diciamo, tra virgolette, somala, la lingua, eccetera, l'ho dovuta un po' mettere da parte. Malaika, nakupenda malaika, malaika. Indovina chi viene a cena. Stiamo ascoltando un brano scelto dall'ospite di oggi, Cristina Lee Fara, una scrittrice italo-somala nata a Verona e poi trasferitasi a Mogadiscio, poi è tornata in Italia e ora vive a Roma, ha pubblicato Madre Piccola. Perché Tina Turner? Mi ricordo quando avevo 12-13 anni, mia mamma partì e mi portò una cassetta di Tina Turner. E niente, e siccome a me piaceva tantissimo ballare, e allora l'ascoltavo, stavo sempre a ballare con questo disco, e come dire, poi per molto tempo non l'ho più sentita, e ultimamente l'ho ritrovata, e così. Beh, Tina Turner è una donna afroamericana, insomma, simbolo anche del Black Power, no? Almeno per quanto riguarda lo spettacolo. fotografie. Sicuramente l'immagine di una donna molto forte. Guardando le sue immagini, una cosa che mi ha sempre colpito, non so se è d'accordo, è questa capigliatura particolare, sì. No? Allora ho riflettuto su una cosa che mi incuriosiva molto, appunto, a proposito del Black Power, del fatto che si parla sempre di Obama e di Michelle Obama come rivoluzionari, perché appunto di colore, ma quando Michelle Obama si è tagliata i capelli con questa frangetta e capelli lisci, tutti l'hanno molto lodata. Io mi chiedevo, forse il vero Black Power avverrà quando Michelle Obama avrà una pettinatura afro finalmente, no? Che a me piacciono, sì, sarebbe bellissimo, i capelli ricci. La situazione invece del film che noi abbiamo citato all'inizio, dal quale prendiamo spunto ogni volta, indovina chi viene a cena, è quella appunto di una ragazza bianca e un uomo di colore. Lei diceva che è una situazione che i suoi genitori hanno vissuto. A lei è mai capitato di essere presentata magari in famiglia, una famiglia bianca, da un fidanzato bianco, e di vedere un po' la perplessità nella faccia dei genitori, possibili suoceri? Perché come si dice, il mio fidanzato, mio marito, con cui sono da moltissimi anni, l'ho conosciuto in Somalia, e quindi ci siamo conosciuti quando avevamo 15 anni e sua mamma era la mia professoressa a scuola, perché io frequentavo una scuola italiana. Abbiamo intervistato poche settimane fa Hijab Ashego, sì. Che so che insomma è un'amica per lei, no? Sì, poi Hijab ci siamo incontrate quando la prima volta in Somalia, perché lei è stata un anno a scuola in Somalia. E anche lei è una scrittrice italiana, possiamo così dire. C'è una fiorente letteratura, tutto sommato, di persone italiane che arrivano dall'Africa. Come se lo spiega? Ma non è un caso appunto che entrambe siamo somale, e ci sono anche varie altre scrittrici come Kaha Eden che è somala, appunto perché in Somalia le scuole poi c'erano anche per le altre generazioni scuole italiane e molti parlavano l'italiano, quindi non è un caso. Appunto il fatto che tutte quante parliamo l'italiano, eccetera, è per questo motivo, per la storia. Però non esiste ancora una Zadia Smith italiana, quindi una scrittrice, uno scrittore, diciamo così, di origini straniere, africane, che però si possa dire fra i maggiori scrittori italiani. Ma io penso sì, che c'è un momento anche per l'editoria italiana che è molto difficile, insomma, i libri che si vendono sono pochi, eccetera, però io credo, sono anche molto ottimista in realtà, nel senso che credo che è un percorso che l'Italia, come dire, sta facendo adesso, in Inghilterra è iniziato molto molto prima, quindi io sono sicura che a un certo punto si arriverà, no, a questo, nel senso che è proprio una sorta di rivoluzione culturale, un cambiamento culturale, e l'Italia anche rispetto, diciamo, a 10-20 anni fa ne è sempre più consapevole, no? È molto cambiata anche, sì. Certo. Allora torniamo ai gusti di Mogadiscio con le ricette di oggi che ci ha regalato Cristina Alifara. Gnocchi di banane. Ingredienti: 1 chilo di banane verdi africane pesate con la buccia, 500 grammi di farina. Eliminare la parte più superficiale della buccia della banana senza toglierla completamente e tagliare il gambo. Immergere le banane in acqua bollente e lasciarle cuocere per circa mezz'ora. Lasciar raffreddare le banane e sbucciarle. Farne un purè con l'aiuto di una frusta elettrica o a mano, lasciando l'impasto un po' acquoso. Alle banane aggiungere circa 500 g di farina. Lavorare fino a ottenere un impasto morbido e omogeneo. Formare dei piccoli grissini di pasta, tagliare gli gnocchi di circa 1 centimetro di lunghezza e mezzo di diametro, col rovescio della lama di un coltello. Disporli sopra un tavolo leggermente infarinato, stando attenti che non si attacchino. Gettarli in acqua bollente e farli cuocere per una decina di minuti. scolare e condire con un buon sugo di pomodoro e formaggio, oppure con burro e salvia. Sambus. Ingredienti per 4 persone. Per la pasta, 270 g di farina di frumento 00, olio e sale quanto basta. Per il ripieno, 400 g di carne di manzo tritata, 2 cipolle piccole, 2 spicchi d'aglio, un peperoncino, 40 g di prezzemolo, olio e sale quanto basta. Olio per friggere quanto basta. Innanzitutto impastate la farina con l'acqua, salatela e lavoratela sulla spianatoia. Poi formate 4 palle di pasta uguali e tiratela a sfoglia, ricavando 4 quadrati di 15 cm di lato. Sovrapponete le sfoglie a due, cospargendo di olio e farina le superfici di contatto. Poi tirate le sfoglie il più sottili possibile. Tagliate infine in croce lungo le diagonali, in modo da ottenere 4 triangoli per sfoglia. Scaldate una padella antiaderente e deponetevi uno alla volta i triangoli, scottandoli appena prima da un lato e poi dall'altro. Poi separate le 2 sfoglie sovrapposte, ottenendo in tal modo 2 triangoli di sfoglia estremamente sottili. Complessivamente otterrete 16 triangoli. Preparate ora il ripieno. Sbucciate le cipolle, tritatele e fatele soffriggere in un po' d'olio insieme all'aglio tritato, al peperoncino sminuzzato e al prezzemolo. Aggiungete la carne tritata e salate. Preparate ora dei cartocci con le sfoglie, unendo i lembi tagliati dei triangoli e incollandoli con una pastella di acqua e farina. Riempite ogni cartoccio con un po' di ripieno e richiudetelo con il terzo lembo, che dovrà essere sovrapposto e saldato sopra gli altri 2, in modo da ottenere un involtino triangolare. Fate riposare gli involtini per una notte, quindi friggeteli in olio bollente. Fateli asciugare su carta assorbente da cucina e serviteli caldi. La puntata termina qui, io ringrazio la nostra ospite per essere stata con noi, buon appetito! Grazie! Ringrazio in regia Peter Bescapè, mi trovate anche su Twitter @Valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate, i gusti cambiano! You've got to give a little, that's the glory of love.